La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Giorgio Tirabassi è un attore romano, cresciuto alla scuola di Gigi Proietti, capace di interpretare ruoli differenti tra loro. Forse nel cuore di molti resta la sua interpretazione del giudice Paolo Borsellino, un film che lo stesso Tirabassi considererà la svolta professionale. Volevo proprio vedere se venivi almeno a salutarmi. Scusami, hai ragione. È che sono indietrissimo con un paio di libri. L'indietrissimo tu lo conosco. Vuole dire 30 di sicuro. No, non è così. Mi sa che lo do la prossima sessione. No, non se ne parla proprio. Tu vai lì e ti fai interrogare. L'importante non è il voto, ma rispettare il proprio dovere e portarlo avanti fino in fondo. D'accordo? Ci penso. E tu pensaci. Ciao, papà. Nel caso del giudice Borsellino era completamente un altro approccio. E l'ho fatto come per la prima volta, come si fa, come dovrebbe essere. Cioè, ho letto tutte le cose che ho scritto, ho visto tutte le cose che ho fatto, le interviste, le cose. Ero terrorizzato dell'accento, quindi ho cercato un accento che fosse equilibrato, convincente. Il trucco, io ci avevo 2 ore di trucco ogni giorno, sia che facevo il Borsellino giovane, negli ultimi tempi, perché c'era una base complicata, quindi era un lavoro, proprio il lavoro, e poi in più la sceneggiatura era straordinaria, perché era stata realizzata da un'intervista un po' approfondita che fece Lucentini, un giornalista, con la famiglia, quindi tutte le testimonianze della famiglia che poi ho avuto la fortuna di conoscere. Era un mondo, è ancora adesso, anche se adesso non c'è più neanche Agnese, ma gli ha lasciato delle cose a quella famiglia, a quei 3 ragazzi, che io continuo a sentirmi come se fosse famiglia mia. Veramente, e niente, questa cosa qui mi ha assolutamente aiutato a campare meglio, ho capito il senso della legalità, ho capito delle cose attraverso le parole di Borsa, poi io non lo volevo fare. Quando il produttore mi ha detto faccio fare Borsellino, ma che si scema, ma non sono altro, non vai via. Ma l'aveva appena fatto Giannini, era più grande di me, ma non tutto siciliano, ma tu sei pazzo, ma me vuoi mettere, sì, cioè, ho avuto il successo di Distretto di Polizia. Lui invece ha insistito, sì, io gli avevo detto no. E poi mi sono visto delle cose, tanto continuavo a leggere, e tra le cose che lui ha detto, ha scritto, ce n'era una che molto semplice, però mi ha proprio colpito come un fulmine, che dice è normale avere paura, ma se la paura non è accompagnata dal coraggio, cioè la paura esiste, ma deve esistere anche il coraggio, non deve esistere, esistono allo stesso modo, so come dire, la paura è un sentimento sano, è un sistema d'allarme, ma questo non significa che tu devi essere immobile. La paura significa che deve mettere in movimento il coraggio. E allora ho detto questo, lo diceva per delle cose più importanti di un'interpretazione in televisione, o della paura di un attore, ma non di un attore, di un uomo. E un uomo perso il proprio lavoro, paura di fare un prodotto che fosse poco credibile, una grande paura. E poi ho detto no. La storia di Tirabassi inizia a 20 anni con un provino quasi surreale per entrare nella scuola di Proietti. Il ragazzo balbetta, eppure sul palco, davanti a Proietti e agli altri della commissione, si esibirà in un prestigioso scioglilingua romano. Insomma, io feci questo provino senza sapere nulla, un monologo che io facevo con questo accento romano e frustavo i cavalli fino all'ora. Quindi, capito, sentivo che c'era un grande scalino oltre a quello della balbuzia. Poi c'era una poesia, quindi ho fatto una, come a scuola, ognuno sta solo sul cuore della terra. È andata proprio, c'era ancora la mentalità da studente. E poi dice, se vuoi, puoi cantare un pezzo. E io suonavo la chitarra e cantavo, era innamoratissimo della nuova compagnia di canto popolare. Feci un pezzo che si chiama Arancio e Mosca, che è uno scioglilingua, che tutto gli si hanno fatto applauso e mi hanno preso. Fiore scarlato sulle porte di Roma c'è sta scritto, gira quanto tu vuoi ma qui t'aspetto. Fiori in fiorello, che avete amore mio, che state giallo, che avete amore mio, che state giallo, va fatto male l'aria de Castello. Scioglilingua, testi antichi della tradizione popolare, restano in fondo la vera passione di Tirabassi, che è in uscita con un album di canzoni popolari romane. È una raccolta di canzoni del repertorio popolare romano che avevo già in mente da tanto tempo. Io sono appassionato di musica tutta, e in particolare di quella popolare, soprattutto quella napoletana, quella romana, mi piacciono molto. E siccome quello che si sa della canzone romana è poca cosa, a parte qualche, appunto, qualche canzonaccia, a parte anche degli episodi anche bellissimi, come Roma non fa la stupida stasera, Lella della scuola Cantorum, però c'è tutto il repertorio che va dal 500 in poi fino ai primi del 900, che è meraviglioso, soprattutto nei testi. C'è anche qualche esempio di bellissima canzone serenata che può competere anche con le migliori napoletane. Quindi, siccome appunto sono appassionato di musica, canto comunque queste canzoni e cerco comunque di contaminarle, ma più che contaminarle, di dargli un vestito nuovo che non sia il solito luogo comune del tamburello e il mandolino. E questo lavoro sulla canzone romana è stato fatto ovviamente con degli amici musicisti professionisti, perché chiaramente non sono all'altezza. Però ho portato un sacco di idee nella sala prove, che poi in realtà non era una sala prove, perché convincere i musicisti a fare delle prove gratis è più facile che un cammello passi, eccetera. E quindi ho preso un locale, diciamo, il martedì, in un locale dove noi andavamo e provavamo con il pubblico tutto questo repertorio. Ci abbiamo suonato un paio di mesi e alla fine avevamo costruito un discreto repertorio. Fiori in fiorello, che avete amore mio, che state giallo, che avete amore mio, che state giallo, va fatto male l'aria De Castello. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano speciale Sanremo, alle 15.30, rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. La prima volta. Allerta! Allerta! Allerta, allerta, la campana suona. I turchi sono arrivati alla marina. Chi c'ha le scarpe rotte, le risola. Le mie lo ha risolate stamattina. Come te posso amare, come te posso amare, L'ospite della puntata di oggi è l'attore Giorgio Tirabassi, per molti il commissario della serie TV Squadra Mobile. La storia di Tirabassi però è lunga, inizia con un grande maestro, Proietti, e continua sotto la guida di grandi registi, l'Archibugi, Mazzacurati, Risi, Scola. Classe 1960, Tirabassi vive Roma in modo totale, la recita, la canta, come in questo brano che stiamo sentendo. Sto dentro a San Michele carcerato. Vengo da una famiglia di impiegati. Mio padre lavorava in Vaticano e mia madre lavorava come contabile nella farmacia interna del San Camillo. Quindi, diciamo, il posto fisso era l'obiettivo di molti. Io ho fatto ragioneria, mio padre aveva modo di farmi fare un concorso, una cosa per entrare in banca in Vaticano. Solo che era il 77-78, la banca era la morte politica, era tutto, c'era comunque un fortissimo impegno politico, di posizione, proprio di responsabilità, da come si andava vestiti alle scelte che si facevano, eccetera. Quindi io poi già volevo fare l'attore, quindi per me è stato no. Poi nel frattempo, cioè, oddio, l'attore è successo un anno, due anni dopo, perché io volevo fare l'ISEF, siccome ho fatto molta ginnastica, facevo ginnastica artistica, mi piaceva molto, allenavo i bambini in palestra per pagarmi la retta, e volevo fare l'ISEF. Invece venne a trovarmi lì per iscriversi, io poi non amo gli aneddoti, però questo è stato proprio la svolta, diciamo, anche perché appunto io ho balbettato per tanti anni, ancora adesso balbetto, ho sviluppato il metodo Gagliardo, però insomma dipende da che ora e in che contesto a volte balbetto, però fino, diciamo, ai 17-18 anni era un problema serio. Quindi ci pensavo e non ci pensavo, avevo paura. E mentre facevo questa pseudo lezione ai bambini, che era pomeriggio, suonano in segreteria. Io metto i bambini sul materasso, e vado a vedere. E c'erano due ragazzi che venivano a iscriversi perché frequentavano una scuola di recitazione. Uno di questi, io lo guardo bene e scopro che è il mio ex compagno di banco della prima media, con la quale avevo un affiatamento e ci siamo incontrati lì dopo tanti anni. Ho detto: Thomas, come va? Ma tu che fai qui? Eccetera. Mi ha detto: la scuola di recitazione. Ho detto: sai, a me piace tutto tanto. Dice: beh, vieni, fai il provino, tanto è una scuola privata, non si paga una retta. Insomma, e io feci questo provino senza sapere nulla. Alla base del nostro lavoro, del lavoro dell'attore, intendo dell'interprete, c'è il rapporto col proprio ego. È quello, ma quello si vede anche nella recitazione, sai? Cioè, con l'occhio un po' tecnico, tu vedi l'attore che si compiace della sua recitazione, ma anche senza occhio tecnico, purtroppo. Però quelli vuol dire che non sono così bravi, perché se tu vedi, diciamo, profano, che fai un altro lavoro, ti accorgi che un attore recita, perché recita, e allora. Però diciamo che c'è, insomma, ma anche come la musica, anche come nel jazz, nell'arte contemporanea, c'è chi ha un approccio e chi un altro, ma è sempre in base alla considerazione che si ha di se stessi. Io non dico che bisogna andare in giro con coso, con una lustina e sostanza, non dico questo, però dico che per raccontare bene i personaggi, quasi sempre i personaggi si ispirano alla realtà o comunque a un ceto sociale che è vicino a quello del pubblico. Lei il successo, diciamo, del pubblico, quello più grosso, l'ha avuto con le fiction, però prima lei ha lavorato tanto, ce l'ha detto anche nel corso di questa intervista, in particolare dei riconoscimenti trasversali proprio le sono arrivati quando ha interpretato Borsellino. Quello è stato un ruolo, ho letto anche nel corso di un'intervista che lei ha rilasciato a Famiglia Cristiana, che lei ha sentito molto, che le è rimasto molto, insomma, quel personaggio è così. Sì, assolutamente, assolutamente, perché come ho detto già diverse volte, non capita sempre di interpretare un personaggio più intelligente dell'attore. generalmente noi interpretiamo dei mentecatti, soprattutto nelle fiction dove la sceneggiatura deve per forza fare dei salti e cioè a volte l'investigatore non si accorge di una cosa macroscopica, come a volte si accorge invece di una cosa che non ci sarebbe mai arrivato nessuno. Nel caso del giudice Borsellino era completamente un altro approccio, ma calcola che noi ci avevamo il groppo alla gola ogni prova che facevamo, perché tu racconti la storia di una persona che sai che morirà, ormai lo sai perché è storica, è un fatto storico, quindi tutti i suoi atteggiamenti nei confronti della famiglia. Lei è anche stato sempre molto presente nella sua di famiglia come padre, quindi probabilmente sì, cioè, guarda, eppure quel film anche mi ha convinto sempre di più. Io sono ormai sono 27 anni, sto con mia moglie, c'ho un figlio di 26, un'altra di 18, e sai, poi col lavoro che faccio io non è proprio così automatico che uno ogni sera la passi a casa, in famiglia, quasi riproducendo il mio stile di famiglia, della vita, dei padri, un biver e tutto. Però ci arrivi, piano piano te la costruisci una figura di uomo che sia accettabile, che possa stare bene nella società, un equilibrio col proprio ego. Amore, amore, ma nemmeno saluto. Sto dentro a San Michele carcerato, da amici e da parenti abbandonato. È tutto, la puntata è riascoltabile online sul sito di Radio 24 oppure venendo sulla nostra pagina Facebook. A presto e buon inizio di settimana da Cristina Carpinelli. Come te posso amare? Come te posso amare? Si esco da cancelli, guardi l'uno me l'ha da pagare. Sfortunati stanno al mondo, uno di quelli me posso chiamare, butto una paglia a mare e me va a fondo, all'antri vedo il ferro galleggiare. Posso amare, si esco da sti cancelli, qualche d'uno me l'ha da pagare.